9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno. Certo, c'è un mondo che si interroga molto su queste fughe di notizie. Centinaia di migliaia di documenti segreti, ma segreti fino a un certo punto, in realtà vanno tutto in rete e quindi il mondo esplode. Però ragazzi, qui prima di preoccuparci dei documenti segreti redatti dagli ambasciatori americani che dicono che cosa fa Putin, che cosa fa Berlusconi, cosa fanno Gheddafi eccetera eccetera, dovremmo occuparci innanzitutto dei documenti che cambiano la nostra vita è scandita da delle precise appuntamenti. Come è noto, prima della morte e più accurata e affilata della morte, come dice la battuta, c'è l'esattore delle tasse. E quindi oggi noi parliamo, come al solito, di queste scadenze che complicano e modificano la nostra vita. Perché lo facciamo? Beh, diciamo che c'è un imbarazzo della scelta di notizie recenti, per così dire. Partiamo come sempre con lo spirito di radio di servizio e quindi di radio di Confindustria del sistema delle imprese, ricordando che alla fine la tanto aspettata esenzione fiscale per le scadenze in vista del 30 di novembre per le 3.400 imprese ferme per l'alluvione in Veneto e le 100.000 danneggiate, tanto per cambiare, ho vinto la scommessa, non c'è stata. C'è stato semplicemente 5 giorni di tempo in più, dopodiché si capirà che cosa fare. Devo dire che il ritardo lo abbiamo illustrato, l'abbiamo fatto illustrare al commissario straordinario Luca Zaia, che ha detto che bisogna stare attenti perché il governo teme di perdere troppo gettito. Ma mi pare che ancora una volta le imprese del Veneto abbiano tutte le ragioni per diffidare e quindi la nostra opinione è chiara. Se lo Stato in questo non lascia i soldi che le imprese hanno nel po' di cassa e che serve loro per ripartire, lo Stato diventa responsabile della fine di migliaia e migliaia di imprese. Avverrà, non avverrà, non lo sappiamo, perché fino a questo momento una suspense un po' incomprensibile è la strategia scelta dall'Agenzia delle Entrate per dare pochi giorni ancora, invece che prendere una strada decisa. Evidentemente non si sa che pesci prendere quando il problema è quello di dover assicurare un gettito al di sopra di tutto. Eppure ci sono paesi che adottano ragionamenti diversi dal nostro. Si è tenuto per esempio proprio ieri, cominciamo di lì, cominciamo con un aspetto internazionale, si è tenuto un referendum in Svizzera. L'oggetto del referendum era se porre un limite, un freno alla concorrenza fiscale aperta che c'è tra l'aliquota fiscale tra i diversi cantoni, un vero presidio di libertà per quello che mi riguarda. Viva i paesi che hanno la concorrenza fiscale all'interno del loro stesso ordinamento tra pezzi diversi di regioni, che così si mettono in lotta per offrire migliori servizi al più basso costo, in maniera trasparente, per attirare imprese. Attenzione amici in ascolto, perché le imprese italiane che se ne stanno andando in Svizzera sono tantissime e per quello che mi riguarda sono più che da comprendere, vista la differenza di ciò che offre l'ordinamento federale svizzero rispetto al nostro. Eppure ieri c'era un referendum in Svizzera e l'argomento era se mettere un freno alla concorrenza fiscale interna all'ordinamento oppure no. E sentiamo innanzitutto da Lino Terlizzi, corrispondente del Sole 24 Ore dalla Svizzera, che ne aveva parlato già nei giorni precedenti sul Sole 24 Ore, come è andato il referendum, se gli svizzeri hanno considerato, come avverrebbe naturalmente da noi, in una parte dell'opinione pubblica e di molti media, come una cosa negativa la concorrenza fiscale al ribasso, oppure se invece l'elettorato ha detto neanche per idea, non toccatecelo a questa libertà. Come è andato a finire, Terlizzi, buongiorno? Buongiorno, la seconda soluzione, nel senso che gli svizzeri hanno confermato con una maggioranza del 58%, vicino al 60%, diciamo, lo schema tradizionale che esiste già nella Confederazione tra i cantoni e che si basa sostanzialmente su due punti forti, appunto, tradizionalmente. La prima è che i cantoni sono legittimati a farsi una certa concorrenza entro degli argini abbastanza ampi, ma comunque la fanno, e la fanno sia sulle persone fisiche sia sulle persone giuridiche, cioè sulle società. Il secondo punto è che c'è una tendenza ormai consolidata in quasi tutti i cantoni a non penalizzare, diciamo così, i redditi alti e i patrimoni alti, e anzi a cercare di favorire l'insediamento di questi redditi alti, sia sotto forma di persone fisiche, appunto, sia sotto forma di imprese con le loro attività. Quindi l'iniziativa proposta dal Partito Socialista, che è il Partito Socialdemocratico Svizzero di fatto, per avere un'aliquota minima nazionale che non andasse al di sotto di una certa soglia per i redditi alti e che quindi limitasse la concorrenza fiscale, questa iniziativa è stata respinta. Qual era la soglia che proponeva il Partito Socialdemocratico? Il 22% almeno per il reddito imponibile, parliamo delle persone fisiche, che eccede i 250.000 franchi, cioè circa 190.000 euro, ecco, al cambio attuale. No, no, non so, perché io apposta te l'ho fatto dire, perché vorrei che gli ascoltatori si mettessero sulla lunghezza d'onda. La proposta della sinistra svizzera era quella di mettere un'aliquota minima, cioè che non si andasse sotto il 22% sui 190.000 euro. Fatevi il conto rispetto alla progressività delle aliquote italiane, ovviamente, no? In cui c'è l'aliquota massima del 43%, più contributo di solidarietà il 45%, per chi sa, a 100.000 euro. E lì la sinistra propone, no, mettiamo il 22. Comunque questa prima proposta non è passata. Non è passata, non è passata, e per quanto riguardava, diciamo, i patrimoni, cioè la sostanza, come viene chiamata qui, per le persone sole veniva proposta una quota di per la sostanza imponibile che eccede i 2 milioni di franchi, un'applicazione di un'aliquota fiscale pari ad almeno il 5 per mille. Anche questo non c'è stato il consenso, diciamo, si è fermato attorno al 40% a livello nazionale il consenso per questa proposta. Oh, nella gara al ribasso, che è una delle caratteristiche dell'ordinamento, quali aliquote più basse, ricordiamolo agli ascoltatori Terlizzi, si raggiungono in alcune aree dei cantoni con le aliquote più basse? Poi ci sono le municipalità che a loro volta sono in gara a metterci il meno possibile. Si raggiungono a volte delle aliquote che ai nostri occhi e alle nostre orecchie appaiono quasi impensabili, tanto sono basse, vero? Sì, lì dipende dalle persone fisiche o dalle persone giuridiche, diciamo che le facilitazioni maggiori, direi, a livello svizzero avvengono mediamente per le persone giuridiche, cioè per l'insediamento di imprese sostanzialmente. Lì veramente le aliquote possono essere molto più basse rispetto a quelle che vigono nella media dell'Unione Europea, si può andare veramente molto in basso. Per quanto riguarda le persone fisiche, diciamo che nella media nazionale c'è una percentuale attorno al 30% di pressione fiscale, che può avere qualche punto in più, diciamo tra il 30 e il 35%, se si considera che le casse malati non fanno parte dello stipendio lordo ma vengono pagate a parte. Comunque, diciamo, tra il 30 e il 35% è sulle persone fisiche la media nazionale, quindi diciamo tra il 10 e il 15% in meno rispetto alla media dell'Unione Europea. 10-15 punti in meno rispetto alla media dell'Unione Europea, rispetto alla quale noi siamo sopra dai 4 agli 8 punti, a seconda di come considerate la pressione sulle persone fisiche o sulle persone giuridiche. Quanto sta diventando apprezzabile di nuovo, diciamo, nel post-scudo e nell'incertezza dell'euro, nell'incertezza dell'uscita dell'Italia dalla crisi con una così bassa crescita del PIL, mentre il fisco diventa non certo meno spietato? Quanto è tornato ad essere apprezzabile il fenomeno dell'insediamento di imprese italiane in Svizzera dal tuo osservatorio, Terlizzi? Ma direi che c'è un certo movimento, in effetti, che per la verità non si è mai interrotto, però effettivamente si era un po' affievolito. Adesso c'è una ripresa di interesse sicuramente, e lì c'è il discorso anche dell'accordo fiscale che può essere fatto coi cantoni, nel senso che si può andare dal cantone e dire: guardate, noi vi assicuriamo un certo numero di posti di lavoro, vi assicuriamo un certo livello di investimenti, voi che cosa ci date in cambio in termini di alleggerimento fiscale? E si può fare un accordo da questo punto di vista, e questa è anche una chiave abbastanza importante per l'insediamento di imprese italiane o tedesche o francesi, eccetera. Un vero e proprio concordato pluriennale, ed è esattamente quello, per esempio, che la Carinzia in Austria offre alle imprese del nord-est, con vere e proprie conferenze oramai che vengono organizzate nelle diverse province del Friuli. Naturalmente si dice sempre che non serve ad attirare in maniera impropria e scorretta imprese italiane oltre confine, ma semplicemente a illustrare meglio le possibilità di investimento diretto. Nella realtà dei fatti, uno Stato organizzato in maniera persecutoria come il nostro, e che crede che sia la progressività elevata a fare il più del gettito, perde il gettito da una parte e dall'altra perde crescita e quindi perde imprese. Vi faccio riflettere, ieri c'è stato il salvataggio naturalmente concordato, parteciperanno anche le banche, i privati, al meccanismo di salvataggio dei nuovi paesi dopo il 2013, era quello che aveva fatto tremare il mercato dopo che era esploso il carro irlandese dopo quello greco. E uno dei punti di fondo per cui, se fossi irlandese, anch'io mi sarei opposto a questi aiuti, è la richiesta di franco-tedeschi, di Bruxelles, dell'Europa, ad alzare quella dannata aliquota sul reddito di impresa, che nell'Irlanda è il 12,5% e che ha costituito in realtà il vero motore della crescita solida, non della bolla immobiliare e della bolla finanziaria irlandese, ma la crescita vera che c'è stata attirando decine e decine di migliaia di imprese da tutto il mondo, multinazionali, che hanno cambiato la struttura del mercato irlandese, hanno diffuso benessere, ne hanno aumentato il PIL. E l'Europa, naturalmente, che non sopporta i paesi a bassa pressione fiscale, perché dimostrano che si può andare avanti crescendo molto con basse richieste fiscali, l'Europa naturalmente ha detto: voi ci fate la cortesia di raddoppiare quel 12,5%. Gli irlandesi hanno detto no e continuano a non alzarla. Secondo me fanno benissimo, perché questa visione della concorrenza fiscale fatta solo al rialzo per coprire le pretese degli stati che hanno alta spesa pubblica, secondo me è completamente sbagliata. Tanto è vero che, vi faccio riflettere, con quell'aliquota del 12,5 l'Irlanda raccoglie su quell'imposta, cioè sul reddito di impresa in Irlanda, il 3,9% del PIL irlandese. Tutti gli altri paesi che hanno aliquote molto più elevate raccolgono un'imposta molto più bassa. Ma voglio dire, per esempio, in Francia, dove invece che il 12,5% c'è un'aliquota del 34,4%, non sono 4 punti di PIL, ma sono meno di 3 quelli che si raccolgono dalle imprese. In Germania, dove c'è un'aliquota del 29,8%, se ne raccolgono 2 di punti di PIL. Nella media dell'Unione Europea, dove l'aliquota è in media 23,2%, si raccoglie 0,7 di PIL in meno rispetto all'Irlanda. Quindi i paesi a bassa pressione, la mia opinione è che, se sono ben organizzati, ottengono di più e crescono di più. Quindi noi ringraziamo intanto Lino Terlizzi per la dimostrazione di come oltre frontiera si ragioni sulla nostra testa, cioè al nord del nostro nord, e si ragiona dicendo no, neanche il 22% per 190.000 euro di reddito sulle persone fisiche, sì, restiamo con la libertà ordinamentale di fare la concorrenza al ribasso. In Italia invece come si ragiona? Ecco, esempio paradossale a cui non avevo pensato, a dirvi la verità, a cui un amico commercialista mi ha fatto riflettere, di come in Italia si possa paradossalmente risolvere in una vera e propria fregatura ciò che è nato ed è stato concepito invece dalla politica per esplicitamente andare incontro alle esigenze fiscali, di programmazione fiscale di chi ha meno reddito, quindi di una parte fondamentale della piramide sociale italiana, vista almeno come essa viene declinata dalla radiografia delle autodichiarazioni fiscali. Radiografie che a loro volta sono assolutamente non veritiere. Perché? Perché più è progressivo un sistema e più naturalmente le radiografie che si ottengono sono meno veritiere. Anche questa è un'altra delle conseguenze dei sistemi fortemente progressivi, oltre che quella di indurre all'odio sociale, a dividere la gente, credendo sempre che il reddito dell'altro sia più forte del tuo e sia l'altro e non sia te per primo l'evasore. Una delle conseguenze è che tutti raccontano palle, il più che si può naturalmente, però per i redditi molto bassi, cioè per i redditi entro i 30.000 euro l'anno, era stata introdotta l'equivalente della flat tax, era stata introdotta, cioè, l'aliquota secca del 20%, che faceva sperare a tutti di aver realizzato, almeno per la parte meno ricca del nostro paese, una impostazione fiscale basata sull'amicizia, non sulla persecuzione. Invece, conti alla mano, questo amico commercialista, che è il dottor Alessandro Esposto, che ringrazio di essere qua ai nostri microfoni, buongiorno. Ciao, buongiorno Oscar. Mi ha fatto riflettere in che cosa si risolva questo regime. Prendiamo un povero precario di quelli che si sbattono per 700-800 euro l'anno, quindi con 10.000 euro di reddito l'anno, dove veramente è dura fare campare così, e il dottore Esposto ci spiega adesso il regime dell'aliquota fissa al 20% per chi ha solo 10.000 euro in che cosa davvero si può risolvere. Allora, la gran parte delle persone viene indotta ad aprire la partita IVA e gli viene detto: guarda, se tu aderisci a quella norma prevista dalla legge finanziaria del 2008, paghi il 20%, fai il patto con il diavolo e non ci pensi più. E quindi la gran parte delle persone vengono spinte ad aprire la partita IVA, fatturano i loro 1.000 euro, al quale la gran parte viene poi sottoposta a ritenuta d'acconto, e quindi portano a casa i loro 800 euro mensili. Ora, che cosa succede? Succede che in sede di dichiarazione dei redditi scoprono qualcosa che diventa a dir poco assurdo, perché in base a una legge, la 335 del 1995, che era la cosiddetta comunemente chiamata la previdenza al 10%, il 10% dell'INPS, tutti la conosciamo così, succede che ogni lavoratore autonomo, laddove non sia prevista una cassa specifica, è sottoposto al regime della gestione separata dell'INPS. Ora, la norma nel 95 sottoponeva questi redditi al 10%, con un aumento progressivo che ad oggi, udite udite, è arrivato al 25,72%. Quindi sta a significare che io, nel momento in cui vado a compilare la mia dichiarazione dei redditi, vado a compilare il quadro specifico per la sottoposizione di questo reddito al contributo previdenziale, e da quei miei 10.000 euro vado a togliere il 25,72%, che tradotto in soldoni vado a togliere 2.572 euro. E qui no, non finisce qui, perché l'INPS mi dice: ok, mi dai questi 2.572 euro che mi puoi tranquillamente versare in massimo 6 rate, però in più mi dai un acconto pari a giugno al 40% di quello che io ho maturato, cioè sui 2.572, e a novembre mi dai un altro 40%. Ora che cosa succede? Succede che io il mio primo anno ho bivacchiato con questi miei 800 euro mensili, a giugno dell'anno successivo inizia l'incubo perché la pressione incomincia a diventare consistente. Io ho questi miei 800, ma da giugno a novembre inizia il mio calvario, perché devo effettuare questi versamenti che sono pari a 6-700 euro. Ora capite bene che da 800 ce ne tolgo la gran parte, a questo punto non vivo più, ma sopravvivo. Quindi in realtà il risultato è che, una volta che noi leviamo il 20% dai 10.000 euro, gli leviamo poi i 2.500 più o meno che sono dovuti per l'INPS, e gli leviamo anche il totale degli acconti dovuti, su ciò che incassa davvero il povero precario, che dallo Stato è stato indotto a credere che dei 10.000 gliene restavano 8.000, in realtà quanti gliene restano davvero? Ma pochi spiccioli, sostanzialmente pochi spiccioli. È pur vero che una parte l'acconto sull'anno successivo, però gliene rimangono, noi togliamo tra acconti e saldi, togliamo più di 3.000 euro che sono da versare in 5 o 6 rate, quindi se io sono buono gli faccio 6 rate, gli levo 600 euro. Quindi arriviamo quasi a una tassazione del 60-65% finanziariamente. Allora, esatto, sul totale del conto economico dei 10.000 euro, il totale dei versamenti ti arriverà a 6.500. Naturalmente questo significa che il totale degli adempimenti di rito dovuto, siccome si è moltiplicato, e il commercialista, adesso non lo dice il dottor Esposto ma lo dico io, insomma, diciamo, non protesta, perché il totale degli adempimenti dovuti in questo regime ipersemplificato si è moltiplicato per 4, come avete sentito, e quindi al commercialista male non fa, tranne il fatto che, se ha un po' di coscienza, male fa tartassare poveri precari e povere vecchie che hanno così pochi soldi, aderiscono all'offerta amichevole dello Stato, che dice: vieni qua, ti diamo solo il 20%. E in che cosa si risolve questa offerta amichevole? In un massacro! Vergognati, Stato! Pubblicità. Eccoci qua tornati, cari ascoltatori, sentiamo la voce di alcuni di noi. Comincio da qualche letterina di quelle raccolte a caso tra le tantissime che ci hanno raggiunto. Davvero, devo dire a caso, perché moltissime decido di non leggerle, perché ci sono particolari troppo delicati per coloro che poi, naturalmente firmandosi sempre, me le mandano, e per non creare loro problemi aggiuntivi, anche se a tutti tento di rispondere. Quindi ne ho scelte solo due generali, più o meno. Una che, come sempre, ci fa riflettere sulle follie di un ordinamento così cavilloso da non consentire spesso l'interpretazione più piana, quella più semplice, quella che dovrebbe rendere l'adesione spontanea all'ordinamento più facile per chi ha problemi e come per chi non ha problemi. Allora, ci dice questo ascoltatore: buongiorno, sto ascoltando la trasmissione dove si parla di evasori e delle problematiche di chi lavora. Cerco di essere in regola. Io e mia moglie, per motivi di gravidanza e miei personali, anzi mia moglie e personali miei, siamo stati circa 18 mesi senza redditi. Abbiamo quindi delle quote da pagare fiscali, sono rimasti indietro rispetto alle nostre possibilità, anche se mia moglie è uscita da una società, deve tasse per dividendi mai percepiti, insomma siamo rimasti indietro con gli adempimenti fiscali. La faccio breve: vorremmo rateizzare le cartelle in piena trasparenza dichiarandolo, ma essendoci mio suocero residente con noi, anche se in realtà non abita davvero con noi, l'ISE è alto e quindi anche volendo pagare non possiamo, ci dicono di aspettare l'ufficiale giudiziario e di organizzarci direttamente con lui. Non ho capito in realtà, dice l'ascoltatore, che cosa voglia dire o che cosa intenda nell'allusione questo, tra virgolette, organizzarsi con lui. Peccato che io, naturalmente, rivoltomi all'ufficiale giudiziario, mi sia sentito dire in maniera sospettosissima che o si paga tutto o lui pignora. Cosa devo fare? Ma è possibile mai che questa sia la maniera di rispondere ad uno Stato che non si fa capire da chi, in trasparenza, essendo rimasto indietro con gli adempimenti, vuole sapere come fare nel tentativo di rendere possibile il pagamento dovuto compatibilmente con i redditi che realizzeremo e dall'altra parte di evitare di trovarmi perseguitato e additato come evasore? È una domanda che mi sembra abbastanza semplice, no? Da parte di questo nostro ascoltatore, eppure così vanno le cose. Al di là del fatto che poi mi ha fatto molto sorridere la delicatezza dell'accenno a chi gli ha detto ma tu mettiti d'accordo con l'ufficiale giudiziario, e del fatto che lui a quel punto si è comunque rivolto all'ufficiale giudiziario, il quale deve aver inteso in una maniera, penso, un pochino impropria questo tentativo di apprendere se ci si poteva mettere d'accordo, per così dire. Sentiamo la telefonata, Daniele da Roma, prego Daniele. Sì, buongiorno Giannino, senta, io sono titolare di una partita IVA di quelle con il regime agevolato eccetera eccetera, se non che qualche tempo fa sono arrivate le lettere dell'INPS dove era possibile vedere l'estratto conto del proprio profilo contributivo eccetera eccetera. Perdoni, sono incazzatissimo per questa cosa perché ho scoperto che questo 25% che noi andiamo a versare praticamente non lo vedremo mai più. Se uno va nel profilo online e è iscritto in gestione separata, non vede la sua situazione. Che vuol dire praticamente? Vuol dire che non c'è. Se non che mi sono documentato, sono andato su internet, addirittura su un forum della CISL, non mi ricordo come si chiama, insomma. Che ha preso? Un forum moderato, insomma, una cosa tranquilla. Che ha preso? Ho preso, durante una conferenza, l'amministratore delegato dell'INPS, appunto, ha detto non possiamo pubblicare questi dati perché scoppierebbe un putiferio. Eh sì, in ogni caso l'innalzamento del contributo fino a questa percentuale che io considero assassina delle gestioni separate, anche qua l'effetto è di uno Stato che eleva la contribuzione sulle figure atipiche, su chi ha basso reddito, lavora poco, volendo veicolare un messaggio: dovete diventare lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, altrimenti le vostre aliquote, scordatevi che saranno più basse. E in ogni caso se si fa il conto di percentuali di contribuzioni così elevate ma su redditi così modesti, stiamo parlando di un regime, un trattamento che potrebbe portare poi, diciamo, dopo 30 anni continui interrotti versamenti a 150-160 euro più o meno al mese. E quindi l'aliquota così elevata in questo caso secondo me veicola proprio un messaggio che è completamente sbagliato, perché sull'ammontare totale della rendita che si porta a casa c'è di che sorridere, purtroppo, cioè c'è di che preoccuparsi, non so come dire. Cioè, la realtà è che bisognerebbe vivere in un paese in cui si dice con grande esplicita chiarezza a chi ha bassi redditi: guarda che devi trovarti una modalità per coprirti il futuro a lungo termine in maniera privata. Lo dico questo perché i rendimenti nel lungo termine con strumenti privati, soprattutto se hanno una componente, sì, non inorridita, azionaria, nel lungo termine, cioè se uno ha di fronte davvero 20-30 anni, 35 anni di fronte a sé di versamenti autonomi, individuali, modificandone a quel punto il montante sulla base del reddito che realizzi di volta in volta, danno con certezza rendite più elevate di quelle che si possono fare invece con i fondi pubblici, che sono tenuti ad avere una scelta di portafoglio molto meno remunerativa nel lungo periodo, perché è più infilata, più piena di titoli del debito pubblico, di obbligazioni, eccetera, eccetera, di cose che, cioè, nel medio-lungo periodo con certezza hanno rendimenti molto più bassi. Questo ve lo dico perché se avete un reddito basso e siete in ascolto, fatevi i vostri conti rispetto a percentuali così assassine di contributi obbligatori che vi chiede l'INPS. Alberto da Roma, sentiamo l'esperienza di Alberto. Salve, buongiorno. Io sono, appartengo appunto alla categoria del reddito entro 30.000 euro, mi scuso un po' emozionato. Una precisazione riguardo a quello detto prima dal commercialista. A me, io ho dei dati diversi. Bisogna fatturare entro 30.000 euro, bisogna nei 3 anni aver speso per la propria attività massimo 15.000 euro, vuol dire che si possono detrarre massimo 5.000 euro l'anno, vuol dire che di 30.000 fatturato io tolgo 5.000 euro di spese per la ditta individuale, e a quel punto però i dati che non mi coincidono con quelli dati dal commercialista sono questi. Allora, la gestione INPS separata mi costa una quota fissa di 2.800 euro l'anno se la differenza tra costi e ricavi non supera i 14.000 e spiccioli. A quel punto, se dovessi superarli, quindi voglio dire, se sto entro 30.000 euro li supererò quasi sicuramente, a quel punto non solo ho la quota fissa di 2.800 euro, ma dovrò aggiungere il 25% del fatturato. Quindi vuol dire 2.800 euro più il 25%, a quel punto, anche a differenza con quello che diceva prima il commercialista, dopo che avrò tolto il 25% dal fatturato, a quel punto il mio reddito imponibile verrà detratto di un ulteriore 20% di IRPEF. E quindi, appunto, volevo delle spiegazioni, se magari quello che so io è impreciso o appunto non so, o lo è stato appunto il commercialista che ha coinvolto prima nella una rapida rispostina al volo di Alessandro Esposto, perché le devo fare presente che nella sua stessa esposizione lei è stato molto poco chiaro, ma Esposto, le cose stanno così, allora, o no? Sì, no, da quello che capisco esistono due gestioni: la gestione, diciamo, cosiddetta artigiani e commercianti, e quella che lui parlava, nella quale fissa anche un limite minimo, ancora peggiorativo rispetto a quello che abbiamo detto, perché io ho parlato del 25,72 ma sul reddito netto, mentre esatto. La gestione artigiani e commercianti addirittura fissa un limite, cioè se io nell'anno guadagno zero comunque pago i miei fissi 2.800 euro, quindi questa è un'altra assurdità al quale non ho voluto... Ma che è bene richiamare a chi è in ascolto. Anche poi, se non fate niente, pagate. Non so se vi è chiaro. Sì, anche se io realizzo zero, sono in perdita, comunque io sono costretto a pagare i miei 2.800 euro, quasi 3.000 euro l'anno. E calcoliamo che questo 3 anni fa stavamo più o meno in un esborso finanziario trimestrale di circa 500-550 euro, adesso siamo arrivati a 720-730 euro, quindi queste aliquote schizzano sotto gli occhi di tutti senza che nessuno le cita mai, mentre la gestione gestione separata, quella di cui parlavo io, va sul reddito netto, quindi se io guadagno 0 verso 0, se io guadagno 5 verso il 25,72 su 5, fino a un massimale che sta in circa 70.000. C'è anche qui un'assurdità, c'è un'assurdità che la gestione separata non prevede una soglia di esenzione minima, cioè se io faccio 5.000 euro non verso nulla, ma prevede la gestione separata un limite del massimo, cioè se io realizzo più di 70.000 euro non verso più gestione separata. Questa è ancora l'assurdità sull'assurdità. chi guadagna poco paga a prescindere, chi guadagna tanto arriva ad un certo limite e non paga più. Ora io pregherei il dottor Esposto di rimanere ancora con noi, perché ci sono altre telefonate, altre cose eccetera. Come prevedevo, l'esempio della truffa, della rapina, in cui si risolve questa apparenza di amichevole offerta dello Stato nei confronti di chi sta fino a 30.000 euro, come immaginavo avrebbe sollecitato molte risposte e curiosità dei nostri ascoltatori. Ma adesso apriamo un'altra finestra su questo incubo dello Stato illiberale italiano, che piace tanto alla maggioranza dei media e alla maggioranza degli italiani, che inneggiano poi alla progressività e additano solo nel torpe evasore, nell'anomico portatore di un virus che sarebbe sempre il vicino di casa, però mai quello di cui stiamo parlando, cioè la difficoltà per ciascuno di noi di fare i conti con queste leggi fiscali così esose e così incomprensibili. Apriamo un'altra finestra sull'incubo di un'altra parte della nostra così efficiente, così apprezzabile, così virtuosa amministrazione fiscale, e parliamo di Equitalia, del braccio armato dell'Agenzia delle Entrate, quello che deve portare a casa devo dire in percentuale meno diretta di un tempo le imposte messe a ruolo e poi non pagate, ma che si continua ad occupare poi invece di tutto ciò che riguarda le tasse locali o una buona parte delle multe. Insomma, Equitalia si porta a casa quasi 2/3 del dovere di venire a scovare il totale delle pretese pubbliche nei nostri confronti. La novità è che l'Espresso, nel numero in edicola da venerdì della settimana scorsa, quindi l'Espresso all'interno di un gruppo editoriale che ha fatto della battaglia contro gli evasori per raddrizzare la spina dorsale degli italiani, uno dei suoi punti di fondo di questo suo appello virtuistico all'Italia migliore di quella che vota centrodestra, all'Italia migliore di quella che c'è per definizione, sopra vengono loro, perché loro hanno naturalmente la virtù pubblica a nome della quale parlano, sono sedicenti liberali, in realtà fottuti statalisti, a cominciare dal fondatore Scalfari e così via, e dicono di essere liberali, peccato che poi hanno impostazioni sulle tasse da paese totalmente totalitario marxista. Eppure hanno scoperto persino quelli dell'Espresso che esiste un'Italia che non ce la fa più, perché è costretta a chiudere dalle pretese, dai metodi che non fanno distinzioni, sono incapaci di guardare caso per caso e accumulano poi cartelle con debiti fiscali che diventano così impegnativi che i poveri cittadini, per affrontarli, sono costretti ad abbassare la serranda, perché riguarda soprattutto le attività commerciali, gli artigiani, il tessuto di quella piccola impresa diffusa sul territorio che è la caratteristica del nostro paese, uno dei momenti di più forte coesione sociale, capace di resistere anche alla crisi. E per questo, oltre al fatto che se ne è accorto l'Espresso, e mi fa molto ridere perché devono scrivere un articolo arzigogolato in cui da una parte danno ragione all'Agenzia delle Entrate e dall'altra dicono però questi cattivacci di Equitalia, senza capire che è il punto di fondo che non funziona. E allora è collegato con noi un consigliere regionale del Piemonte, dell'UDC, si chiama Alberto Goffi, che io additerei a tutti gli amministratori locali come esempio, perché Alberto Goffi, dopo ora l'informazione sulla circolazione stradale, ci spiegherà come equalmente una parte della sua attività di rappresentante locale la fa proprio al servizio di coloro che non è che chiedano di non pagare le tasse, ma che chiedono di avere una modalità distinta, caso per caso, rispetto alle proprie posizioni che sono emerse in trasparenza, ma di poterlo fare sottraendosi a chi, pistola fiscale alla mano, ti impone di chiudere se vuoi davvero obbedire. Prima le informazioni sulla circolazione stradale e poi andiamo con Alberto Goffi. Eccoci tornati in studio. Quindi, mentre da una parte lo Stato dice no naturalmente alla sospensione della scadenza fiscale per il Veneto, gli dà una dilazione semplicemente che sposta al 16 dicembre i versamenti fiscali per gli acconti delle 3.343 aziende colpite e bloccate dalla crisi, le loro 2.700 famiglie, lo Stato però non fa sconti quando si tratta di venirti a prendere il dovuto secondo lui. E dopo questa inchiesta dell'Espresso, l'Equitalia ha fatto una nota molto piccata, dice ma come, noi solo nel 2010 abbiamo già riscosso 7,3 miliardi e il 20% dei grandi debitori, in 4 anni abbiamo incassato la bellezza di circa 30 miliardi di euro, di cui ben oltre il 20% dei contribuenti con debiti superiori ai 500 mila euro. Attenzione a questa ripetizione ogni volta sui ricchi chi? Capisci che vengono additati naturalmente come lo Stato fa il petto gonfio di orgoglio perché sono capito una percentuale del bene, il 20% da chi? Non è che questa gente che crea reddito, no, con questi soldi, no, viene additata come se fossero i topi nel formaggio del nostro consorzio civile. Uno Stato capace di additare così la gente che crea reddito d'impresa è uno Stato di poveretti mentali, capite? Di poveretti. Io mi sono veramente rotto le scatole, penso che bisogna usare questo linguaggio, che Equitalia risponda sul totale delle cose aprendo il petto di orgoglio dicendo ma guardate bene il 20% viene da chi fa più di 500.000 euro, come se dovesse additare gli adunchi personaggi delle caricature di George Gross. È una cosa ridicola, è inaccettabile. E allora vediamo Alberto Goffi, diciamo l'amministratore locale, potrebbe fregarsene, fa il consigliere regionale in Piemonte, e invece gira con un mezzo in cui c'è il suo telefonino, perché è a disposizione proprio di anche oltre che di tutti i cittadini, ma dei contribuenti che dicono Equitalia ci manda praticamente di fronte alla incubo di dover chiudere. Grazie e buongiorno ad Alberto Goffi. Buongiorno. Come le è venuta questa modalità particolare di attuazione del suo mandato? Ma molto semplice, io nella vita ho la fortuna di fare l'avvocato e quindi conosco dal punto di vista professionale questa materia, ma dall'altra di averla vissuta in famiglia. Sono figlio di un artigiano e che ha vissuto questo meccanismo allucinante che è una pura follia che ha messo in piedi lo Stato nel 2005. Allora, quando sono arrivato in Regione, ho fatto quello che dovrebbero fare gli enti pubblici, cioè mettere a disposizione dei funzionari non solo per sanzionare, ma anche per informare chi fa impresa tutti i giorni con difficoltà, quali sono le opportunità che lo Stato, gli enti pubblici danno e qual è l'assistenza che devono ricevere. Quindi ho utilizzato questo veicolo che è un po' strano anche da vedersi, con una bandiera italiana sopra e che ho scritto consigliere a domicilio, prenota una visita e vado nelle aziende. Ne ho visitate più o meno 2000 e 2000 le ho ricevute in studio negli ultimi 3 anni. E così ho scoperto questo, l'avevo già scoperto perché vissuto personalmente, ma ho scoperto che non era solo un caso isolato il mio o quello di mio padre e della mia famiglia, ma era un caso molto diffuso. Lo Stato non distingue tra quelli che sono gli evasori volontari, che anzi godono di una serie di benefici straordinari, la possibilità di transare con l'Agenzia delle Entrate, quindi di stralciare il loro debito, e dall'altra parte invece quegli imprenditori, in particolare le imprese familiari. Noi abbiamo un tessuto produttivo che l'80% sono famiglie che hanno una loro impresa, sono diventati magari piccola impresa dal passaggio da artigiani a piccola impresa, quindi tutte queste persone magari erano rimaste indietro nel pagamento di qualche contributo dell'INPS a causa della crisi economica, hanno privilegiato giustamente il pagamento degli stipendi dei propri dipendenti, hanno privilegiato il pagamento dei fornitori perché se no interrompono le forniture, hanno privilegiato magari il pagamento con le banche perché se no chiudevano i fidi, e lasciando per qualche mese il debito all'INPS, questo debito è diventato il triplo o il quadruplo. Quindi basti pensare che un'azienda che accumula un debito per qualche mese di 200.000 euro con l'INPS se ne vede richiedere esattamente un anno dopo circa 420.000. Ora, è ovvio che se già non riusciva a pagare quei 200.000 che ha dichiarato, non è che è scappata o si è nascosta, ha dichiarato, e diventa impossibile pensare che un anno dopo abbia così guadagnato talmente tanto da versare 420.000. E qui sono scattate e scattano tutta una serie di meccanismi. Pensi che a Torino e provincia Equitalia nell'arco di 3 anni ha messo circa 39.000 ipoteche attive sulle prime case. Solo noi, abbiamo circa 120.000 persone più o meno che oggi hanno il dramma della casa ipotecata da Equitalia. E se ho detto anche a coloro che sono venuti a intervistarmi all'Espresso di prendere dall'elenco, di venire anche all'Agenzia delle Entrate quando è venuta a chiedermi spiegazioni, perché io ho rotto probabilmente un tabù di questo tema, non bisogna parlarne in Italia. Ma no, ma lei ha fatto benissimo, come non bisogna parlarne? Qua ci sono centinaia di migliaia di piccole imprese artigiane in tutta Italia, perché proiettate voi in ascolto i numeri che vi dice Cioffi su Torino, su tutta Italia, e avrete una situazione che definire allarmante è poco, quindi parliamo pure. Sono circa 1 milione le ipoteche attive. 1 milione le ipoteche attive. Poi applicato oltre all'ipoteca ci sono altri strumenti che i fermi macchina, come no, i pignoramenti. Ragazzi, io dico, il futuro deve essere quello, non mi interessa, non sto facendo sostegno al suo partito, alla sua cosa, ma politici capaci di fare quello che fa Alberto Goffi sono i politici che vi servono, gente che se ne fotte di dare ragione all'Agenzia delle Entrate ed Equitalia, capaci di prendere a parlare con l'Ottola dandogli il vero termine. Sì, fanno il loro dovere, ma siccome campano su quello che vi pignorano, allora in quel caso io dico che questo è uno Stato ladro e che si fa fallire le imprese additandole come nemiche, oltre che ladro è anche mentitore. Appuntamento a domani, come sempre Giannino ha avuto un tono equilibrato quando parla, per riequilibrare il più dell'informazione che va dall'altra parte, dello Stato ladro e non solo quello di chi fa la lotta all'evasione fiscale. Grazie quindi a Rino Terlizzi, Alberto Goffi, Alessandro Esposto e Franco Piantanida e a chi ha consentito dalla regia la messa in onda. A domani.